Noi siamo preoccupati e siamo preoccupati per due motivi. L'uno è evidente, il fatto che il terzo settore arrivi per ultimo, dopo che sono state trovate le risorse proprio per tutti gli altri settori. Questo già ci spaventa perché ci dice che il tema della sussidiarietà, che pure è stato più volte ripreso, come è stato ricordato dai ministri Tremonti e Sacconi in questo anno, poi nella realtà non sta nel cuore e nelle attenzioni del governo. E il secondo elemento molto più concreto è che non sappiamo dopo il 14 che cosa avverrà, quindi è chiaro che se, come ormai abbiamo capito, non ci sarà reintegro al Senato, noi ci ritroveremo con il rischio forte comunque di avere l'anno prossimo soltanto un 1,25 per mille, cosa che realmente snatura questo provvedimento di sussidiarietà fiscale.